chiamata. Molto forte proprio. Ciao Giulio. Ciao Giorgio. L'avevo fatto è quello. Non capisce niente. Infatti non si capisce niente, è tutta alternata. Ah, sono cambiato le tattole, aspetta. Mai l'ho sentito uscire bene al primo impatto, Giorgio. Mai. E questo è strano proprio. Ah, non è vero, già lo sai che sono uscito bene parecchie volte. Aspetta. Ma vai, cosa fai che voce? Mai ti ho sentito bene. Poi magari ti aggiusti, questo sì, ma al primo impatto mai. In 48 anni e mezzo, mai. Mi associo, forse la stazione è peggiore dal punto di vista della radio, proprio. Anch'io stessa cosa, quando lo sento sempre male, oppure con tutti wow, e poi... Grazie, ma ci picchia, bubù. Questo sta andando all'alternata, Giulio. Non ho capito, Giacca, ripeti per cortesia. Che sta andando con un aumentatore che la dà solo alternata. Niente continua. L'ha attaccato al limite dell'acqua e lo scorre dell'acqua nei tubi se ne fa quel rumore lì. Io fatta mettere a posto questa radio. Sì, proprio pomponio, proprio sì, Bob. E allora cosa? Prima di sentire tutta questa alternata, sto ascoltando sul... non so se sia il 23 o il 24. C'è questo coso digitale, un modo digitale da questa città della Germania, c'è una cittadina, sta arrivando sparato, non so quanta gente sta cercando di collegarsi, è un nuovo packet digitale, ed è c'è un nome, Neo Brandeburg, Nuova Brandeburg dovrebbe essere. Buonasera. Ciao Claudio. Oh Claudio, va a fare la cortesia, fai qualche lezione di primo impatto all'Antonello, perché tutte le volte che entra tutto messo male. Ma vedi, noi stavamo parlando stamattina di microfoni e di cose serie. Non ci posso fare niente io, lui sta sempre così. Aspetta che rispondo al telefono. Ciao Gianfra. Ho fatto, allora faccia la suoneria. Riprendi Giulia. Ti ho capito, io faccio, ma allora c'è preparazione praticamente. La Germania ti sta bombardando di preparazione. Sì, però sono in packet, capito? Sono in packet in FM. Stanno arrivando bene da questa, ma lo sai quanti ce ne sono? Almeno una trentina ne ho visto, poi ovviamente non avendo nominativi da cui puoi vincere da dove chiamano, ma sicuramente sono francesi, spagnoli, e tutta la Germania, poi veramente sono in tanti lì, ed è un, noi lo chiamiamo un nodo praticamente, no? Che sarebbe una specie di coso digitale, tutti i colleghi, e puoi entrare in contatto con vari servizi. Ma sono tanti, lo sento da parecchio questo nodo. Germania, ma ce n'è più di uno, sono veramente tanti. Beh, adesso va meglio, tutti due sciapotchi. Peggio che mai. Stampa di tutto. Va, la cosa stavo dicendo, lei. Giulio, dimmi la pazza di tutto. Ciao Luca. Ma cosa vuoi? Ho votato dei cinesi adesso, quindi non dimmi che sto scendendo male, perché non è possibile. Poco, ti sei un po' uomale. Antonio, guarda che è triste lì, sentire la tua radio in quelle condizioni è triste veramente. Tu che ti interessi bene o male, in parte anche di riparazioni, eccetera, eccetera. È veramente triste. Vabbè, dai, vai, gioca. E infatti se dice che ripara pure la radio è solo da ridere. Grazie per la cosa, tutti e due, grazie. Mi dovevo salire a far culo tutti e due perché anche tutte e tre per esattezza, ho preso Luca. Porca miseria, se sono un alimentatore di civisi, allora non avevo l'alimentatore, il discorso è questo. Io non ho capito niente, è solo alternata. Infatti sono alternata a 60 blu, vabbè, comunque vedi tu a dove mettiti a posto, noi già siamo qua. Vai Luca. Mi sono ascoltato a prendere il telefono. Sì, io ho bene, sto scendo, sì, sempre il microfono normale, antenna di gomma. Sì, fuori frequenza appena appena. Bene, allora è fuori frequenza sono, giù fuori frequenza sono. No, non è vero, già va bene così. E lui è che ha l'alimentatore col terremoto sotto. Sì, c'è la giovettuccia, infatti. No, va bene così fuori frequenza, io sono 27.075.00. Ti sto sentendo bene non lo so, con l'accio che ci sia qualche essere spostato, ma quello è da verificare, ma io in questo momento non posso verificarlo perché sono a sintonia programmata, per cui non posso. Se sarei stato a sintonia continua non avrei potuto verificare. Va bene, avanti Luca ancora. Sì, io non ho toccato niente, è sempre così il baracchino, non mica lo metto a aprire e fare, no, non lo so. Se è fuori frequenza, sicuramente un po' sarà, leggermente fuori, sì. Fuori di gabbo? No, di gabbo che avevo sempre stato, che c'entra, leggermente fuori frequenza, sì. Ma se non devo vedere tutti e due che sono fuori frequenza perché sto usando l'effettivo 857D, se no figlio cazzo ce l'ho buttato dalla finestra. E fai bene, per me fai bene Luca. Ok, dai, allora va bene, no, ripeto, non qua tutto a posto. Pensavo ci fosse il fine corsa postato, ma è a posto, poi tutto a posto, non c'è niente da toccare qua, ecco. Io ho controllato adesso la sintonia continua, per me sta andando bene Luca, per cui mi sono spostato di alcuni hertz sia da una parte che dall'altra e sta andando bene, per conto mio sta andando benissimo. Mezzugai, anche voi tutti bene, dopo un po' male lo ascolto, un po' un rumore sotto. Un rumore sotto, con l'FT7D, non può essere, no, l'altro 5FD, non me lo dico per niente perché non ci credo, manco morto. Ciao Fra, io non ho capito bene cosa ha detto. Io lo sento tutto impastato, che è qualcosa di micidiale, e quindi non è che riesco a afferrare troppo quello che dice, ho capito Jesu qualcosa, 7-4, forse è meglio che ci butti alla finestra. Vabbè, ce lo butto alla finestra, non ti preoccupare, domani mattina. Anzi, lo metto in vendita, 250 euro, almeno qualcuno di voi viene a prenderlo, così almeno so chi è il bugiardo. Io non di certo, sono apparato del genere neanche lo possiedo, quindi. Vabbè, quanto mi dai che vengo a prenderlo io? Quanto mi dai? Non credo proprio, sta tutta la bella fino a ieri, aiuta, mi sembra una presa per il culo adesso, va, è uno scherzo, aiuto. Ma adesso già è migliorato, la alternata non c'è più, però è una modulazione tutta impastata, adesso non sto scherzando, l'alternata non la sento più, però è una modulazione, guarda, Antonio, non lo so, sì, con la patata in bocca. Sì, adesso non so con la patata in bocca, lo sai, che c'è lì, tipo Santino. No, lo so, quindi tu se puoi regolare qualcosa, che adesso... Va bene, vai, avanti Luca. Sì. Qua siamo, qua. Oh, non è una picchia di modulazione questo, questo microfono, ma c'è un quello da amplificato, si sale lo smitter. Sì, qua si sposta di due tacchi appena. sera da 9 a 9 e 2 con le cose di piccola, diciamo. Per cui vabbè, c'è un microfono normale però quello, Luca. Sì, il microfono normalissimo, sì. Ok, e io sto usando un MB più 4 da tavolo. E io te ne faccio picchi di modulazione. Prova, Giulio. Stai attento, Luca, 1, 2, 3, 4. Qui lo smitter me ne segna abbastanza. Però non so se tu me lo decidi. C'è un anzio che non è ancora allucinante. Sembra che c'è un... come si chiama? Quello che... ti stai tagliando legna. Ma io? No, Giulio, sto parlando io. Che fai... vai, buttalo via quella radio che hai. E la vedi che riceve anche male. Quello che hai detto, vero Gianfranco, che sto facendo male? Guarda, se abbassi di un pelino, sicuramente sarà molto meglio. Da me sei un po' rimbombante, come dire. È un po' troppo su, dai, come radio. Però almeno è comprensibile, se non altro. Basta poco, ed è perfetto. La cosa invece all'Antonello lo sento, come dire, è una voce impastata proprio, non posso dire neanche cupa, è impastata. Grazie, impastata, me lo sono immaginato. Vabbè, allora vuol dire che, vabbè, chiudo e ve la tirate in Napoli, tutti e tre, a un certo punto, se è passato. Ci siamo domani a vivere, almeno vi passa un pochettino la cosa, a un certo punto, perché non è possibile. Mi spiace, ma ha cambiato l'alimentatore, quindi due sono le cose, mi state tirando per il culo o cosa, vabbè, comunque, vabbè, ci siamo domani, là. Quando vi sentite un po' meglio l'orecchio, che vi fate le... come c'è la cannucola, quella che si usa in farmacia, sente meglio un pochino più chiaro, va bene. Quella che non stavamo scherzando, e abbiamo detto la verità, Antonio, non è come pensi tu. Adesso la radio mia dovrebbe essere migliorata, perché mi allontano ancora. Mi sono allontanato dal microfono, confermi Gianfranco. Sì, adesso va bene, decisamente molto molto meglio. Vabbè, vuol dire, allora diciamo, stai uscendo benissimo, neanche Claudio esce così bene come te, Antonio. Se ti va bene così, quando è differente, non è che ci pagano per dire fesserie, però se sei contento così, diciamo, stai uscendo benissimo, non bene, di più. Neanche vi rispondo, la verità, per educazione. Riprendi Luca. No, io questo passaggio non l'ho sentito, basso. Ha detto che lo stiamo prendendo in giro per i controlli che gli abbiamo dato. Ha detto quello lì, e che adesso dice neanche per rispondere, ha detto. Si è anche offeso dopo che gli abbiamo detto di aggiustare la radio. Te ne faccio. Gianfranco, non gli dire più niente, io non le dico più niente. No, adesso come standard, anche se non lo sento, stai scendendo bene forte. Così, almeno se vuole il tipo di controlli così, vediamo così. Contento lui. Io pensavo che interessasse i controlli dati bene. Claudio, ci sei? Io finitela questa telefonata. Ciao Cristina, vabbè dai. Luca, non mi dire più come stai uscendo, perché tu, io sono uno che non posso essere creduto quando mi controlli, capito? Beh, certo. Comunque, Luca, quel numero che mi hai dato l'altro giorno a riguardo della radio, eccetera, funziona alla perfezione, non c'è problema, l'ho già appulato, per cui funziona alla grande. Con l'altro non riuscivo mai a prendere la linea, ma era una cosa indecente proprio, perché quel telefono o lo staccano loro, sempre occupati. Perché molte volte non lo apre. Allora a me mi risultava sempre occupato, ma comunque risolto il problema. Avanti Gianfra, di cosa parliamo stasera Gianfra? Di cosa vuoi parlare? di cose tristi, no, perché ce ne sono anche troppe. Niente, però ho trovato un'antenna in mezzo al ferro vecchio qua, no? E adesso la sto vedendo che costa 35 euro ed è la Titanium 800 da Sirius. Ho provato a metterla sulla magnetica, neanche a ruccio, ma neanche a ruccio, l'ho messa sotto un analizzatore di antenna, mi è uscita la scritta lampazzira. Ok. No, io mi stavo, prima di parlare a Baracchino, stavo guardando la staffa del Giro di Francia, non si riesce mai ad avere una vittoria da parte dei ciclisti italiani. Vabbè. E prima ancora ero al computer, ho messo Radio Garden e appare un mappamondo con migliaia e migliaia di puntini. Questi puntini equivalgono ognuno ad una stazione radio, prende tutto il mondo, tutto il mondo intero, anche le TV di Sassa, di tutto prende. E lo stavo guardando, c'ero da tempo nel telefonino io con l'applicazione, ma oggi ho voluto provare, vediamo un po' se apre anche nel computer, e apre alla grande anche, caspita se apre, prende qualsiasi stazione del mondo. Perché ci sono i punti di riferimento, tu clicchi su quel puntino e ti apre la stazione in oggetto. Va bene, avanti Luca. Ma ha cambiato il radio, Giulio? No, non ho cambiato il radio. No, perché Luca, dimmi. No, ti sentivo più squillante, non lo so. Perché ho abbassato, perché mi avete detto poc'anzi che ero troppo forte e allora ho abbassato un po'. Mi sono praticamente allontanato dal microfono e poi mi avvicino di nuovo così come lo poc'anzi, magari è troppo forte. Mi sono allontanato dal microfono, Luca. Oh, sto diventando sordo io, prima di bello squillante, andava bene, non lo so. Ma per me va benissimo, è ascoltabile, prima era troppo rimbombante. Oh. Aspetta. Ecco, è così, ditemi se così è fastidioso o se va meglio, Luca. Prova giù. 1, 2, 3, ho aumentato ancora un pochino il microfono, però non vorrei che fosse troppo rimbombante per Gianfranco. Avanti, Luca. No, ma va bene, benissimo. E per te Gianfranco, troppo No, se parli di stampa è quasi come prima dal punto di vista della chiarezza e dell'udibilità, non è, prima forse era molto vicino al microfono. E niente, è così. Scusate che ero al telefono, ciao, buonasera a tutti di nuovo. Ciao Claudio, sì Gianfranco, infatti prima ero appoggiato coi gomiti sul tavolo e praticamente mi stavo mangiando il microfono, è per quello, adesso mi sono raddrizzato. Avanti Claudio. Ia, va bene, dai, io Gianfranco. Più di questo non posso fare, abbiamo fatto relazione con Giulio, più di questo non posso fare. Per me fa benissimo. Vedi tu. Questo è l'MB più 5 con l'attacco Kenwood, però sull'altro connettore invece c'è il microfono normale. Altero non si può fare. Ok, ciao Luca, buonasera, ben ascoltato. Mi ascolti bene? Ciao Cla, benissimo, la grande. La radio è buona, no? Positivo, sì. Va bene, questo è il 950. E oggi, cos'è? Oggi abbiamo... ci siamo dedicati a questa radio, dai. Chi è che fischia? Che buona, fa vedere, non gioco con i denti. Ciao, buonasera. Avanti Giulio, riprendi e fai girare, dai. Ok. L'amico che è in PMR, passa il 27, che così allarghiamo la ruota. Anziché stare in PMR, passa il 27, se mi stai ascoltando qua. Sì, va bene, va bene, non c'è problema. Per me va benissimo, io ti ascolto in maniera eccezionale, per cui poi naturalmente ognuno di noi ha la sua ricezione, è ovvio che ci possono essere anche delle differenze da una radio all'altra, però io ripeto, col mio birichino ti ascolto abbastanza bene, molto bene, chiaro, bello, pulito. Ok, avanti Gianfra. Sì. Quelli che stavamo passando non erano figli del fuoco, però qua. No, assolutamente, mi sembra che era qualche ambulanza o qualcosa del genere. Ah, ecco, perché non mi appare. Quindi non sono loro, dai. Non so. Va bene, dai. Ok. Avanti Lucariere, prendi. Eia. Oggi c'è un po' di venticello là. Poco a poco, si sta bene, a me non si respira un po', va. No, quel caldo afoso, per carità. Ehi, venticello, c'è un bel maestrale, c'è. Vabbè, ma si sta bene però qua. C'è la pompone, ma poi ci sei. Scusate un attimo, Ine. Riprendi, Gianfra. Sì, dimmi. Sì, Claudio, dimmi. Riprendi, di qualcosa. Ti va bene con quella modulazione? Sì, beh, adesso va bene. No, stavo guardando un'antenna, che ho trovato un'antenna, però non c'è verso raccordarla. Nonostante sia nuova, perché era abbandonata. Di quelle, non so se c'è presenti anche i film di Nino Baum, fino al commissario Logatto, che c'era un'antenna uguale. Quella la, come si chiama? Sirio Titanium 800. Però la metti con la base magnetica, però no, con la base magnetica non c'è verso, l'analizzatore mi dice che è tutto sta sballata. Un peccato perché comunque è un'antenna molto molto robusta. Già lo so. Va bene. Comunque. Ah, a proposito, ti volevo dire, ma lo sai che c'è anche il CW incorporato a quella radio, sì? E esce anche molto bene, è in pratica senza tasto, dove c'è scritto Beacon, lì, va in trasmissione anche in CW, sai? Sì, certo, lo so, ed è... Se temi l'altro fa anche la telefonata, se temi l'altro ancora ci metti l'antennino suo, dà anche la posizione di dove si trova, capite? Quindi non è, ne ha tante di cose, ne ha veramente tante, è così. Vabbè, Giulio, riprendi. Con chi stavi parlando in PMR? Ho abbassato il volume. Ciao, oh, Antonello era. Con Antonello gli ho detto di passare qua, ha detto no, dice, perché si è offeso perché gli abbiamo detto come stavo uscendo. Detto, ma poi ti abbiamo detto che stavi uscendo bene. E dice di non lui, cosa vuoi che dica? Forse non ci ha sentito, perché inizialmente, non so se tu stavi ascoltando, ma stavo uscendo malissimo, ma male però, capito qua? Adesso era lui in PMR, l'ho invitato a venire qua il 27 e mi ha detto che non ci veniva perché se non gli diciamo che stavo facendo male, boh. No, io non l'ho sentito perché stavo facendo altro. Però se uno ti dice che stai facendo male non è che te lo dice perché ti vuole male, te lo dice perché ti vuole bene. Vabbè, se non vuole entrare, pazienza, non c'è problema. No, io sono qua e rimango qua, anzi il PMR lo abbasso, lo metto a zero, perché io faccio una cosa o faccio un'altra. Va bene, avanti Luca, riprendi. Poco fa stavo facendo bene, boh. Se uno si offende, se uno esce male vuol dire deve fare qualcosa, deve regolare, non è che si offende, boh, per carità. Avanti Gianfranco, riprendi. Anche lui, la vecchiaia sta andando così. Claudio, comunque ho chiesto un preventivo, ce ne sono due disponibili, una è qua a Sassari e l'altra è a Milano, una è praticamente Casa Serena e l'altra è il Pio Tribuzio, però a Milano, quella lì. Se sei d'accordo ci prenotiamo, tra qualche anno ci trasferiamo lì. Cosa, Gianfra? Ma stavo cercando una casa di riposo. No, non c'è il problema, io ho l'etera lì via Carlo Felice, quindi dove c'è anche mio cognato, società, perciò mi fanno anche lo sconto già, fra, capito? Ci vengo anch'io. No, tu no! Ciao Marco! Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Chi siete? Quanti siete? Un fiorino. Ascolta, non cominciare a fare troppe domande, perché siamo stanchi, ci possiamo dare solo una piccola risposta. Siamo io, Claudio, Luca e Gianfranco, per cui ci bastano le risposte. Perfetto, perfetto, dai. Buona serata a tutti, così magari rimango più che altro all'ascolto, tanto devo mettere mano ai fornelli come sempre. Piuttosto, tutto regolare qua, la modulazione com'è? Normale? Ma si è agganciato. No, antenna diretta Claudio, antenna diretta, avevo bisogno di controllare se tutto stava funzionando bene, quindi antenna diretta, diretta all'apparato, K. Ma diretta all'apparato esce molto, molto più forte, pensavo di riagganciato. 10. 10 watt. Eia, 10 watt, comunque più antenna diretta, scusa, mi sono sconfusionato. Ah, ecco, allora già ci siamo adesso, vai. L'importante è che la modulazione sia chiara, più chiara possibile. Ditemi se c'è qualsiasi tipo di problema sulla modulazione, K. Io non commento. Per me va benissimo. 9 più 17, anche per me va benissimo, Marco. Va bene, modulazione a posto, tutto va bene, tutto va bene. Non c'è bisogno di toccare nulla. Ok, dai, riprendete e vi ascolto. Che sono ancora accaldato dal mega giro che ho dovuto fare in macchina. Ascolta, prima di allontanarti, va bene come sono io? Puoi confermare anche tu, per favore? Forse appena appena strappato, però conta che sto usando una radio diversa. Diversa, non è il solito 3009, capito? Diversa, potrebbe essere la radio che riceve così. No, in questo passaggio anche da me, allontanati un po' Claudio, che si avvicina troppo a me. Strappato addirittura, allora abbasso leggermente il Mickey Gain, lo rimetto così com'era, va meglio così? Ha migliorato comunque. Ah, e la cometa, a spostarsi sta radio, cioè io non ho toccato niente, io sto parlando a 30 cm dal microfono, niente di particolare, come faccio sempre con tutte le radio. Magari non te ne accorgi, alzi la voce, è così. Non ho toccato niente. No, ma adesso già sta andando bene, era solo quel passaggio lì, o qua, era solo quel passaggio. Vabbè, se va bene così lo lascio stare così, perché la mia timbrica di voce è questa, io non grido, è già fra. Se va bene così lo lascio stare così, non la tocco, perché stamattina abbiamo fatto delle regolazioni, poi sicuramente io ho toccato qualche altra cosa, però questo è il passaggio definitivo, va bene così? Perché a me stare tutta la sera a chiedere i controlli a fare non mi interessa, lascio così sì o no? Sì, la causi. Anche per me va bene così. Era solo quel passaggio che ti è stato notificata la cosa, vabbè, già mi hai capito. Per cui, ma adesso va bene che qua. Forse ti sei abbassato senza nemmeno rendere conto, ti sei avvicinato troppo al microfono. Sicuramente hai fatto un movimento che ti ha portato vicinissimo al microfono senza nemmeno rendertene conto, ma adesso va bene così. Bene, Mela, va bene che va bene, lasciamo così allora. Avanti Luca, riprendi. Lasciate tutto così che va bene, tu che di nuda, ciao Marco. Marco è andato che sta girando la minestrina, che tra poco sono le 6. Ha chiamato me Luca, Luca dimmi. Sì, ho detto ciao Marco, sono così. No, c'era lo squalcialto. Va bene, ti ho salutato comunque, avanti un altro. Fai Brodino mio. Capito Marco, Brodino prepara, così ti mantieni leggero. Leggero, io potrei mangiare la peperonata alle 5 di mattina e uscirne indenne. Questa cos'è? Colazione o pranzo? Questa dovrebbe essere colazione come minimo, il pranzo più tardi, verso le 7. Sempre lì siamo, me. Sempre lì. Luca, ma mi dovevi chiedere qualcosa, dimmi. No, no, ti stavo salutando. Cappa di Rosmetro. Oh, cazzo. Ehi, dimmi. Mi sono dimenticato di dirti che c'è, che ce l'avevo anche. Me li dimentico sempre. Se a qualcuno interessa un'antenna di quelle molto molto robuste, HF fino a 30, dai, è solita, per mezzo mobile, però è per fuoristrada, solo esclusivamente per fuoristrada, veri e propri, quelli robusti a prova di proiettile, perché l'antenna è grossa quanto un pollice dall'inizio alla fine, staffa in acciaio inox, ma è usata proprio nuova, totalmente nuova. Boh, non so, dovresti dare il bando qua, se serve a qualcuno, non lo so Gianfra. A proposito, ma il microfono normale, il suo originale della Barrett, di quella radio, non esiste? Non ce l'hai tu? No, io ho conosciuto sempre quello, poi è una delle cose che non ho mai capito lì. Quindi tutti quelli che ho visto hanno quel tipo di microfono, che deve avere anche un'impedenza un po' strana, dato che gli altri non si adattano. Comunque sarà così, cosa vuoi dire? Comunque lascialo com'è, non toccare niente, mettici il botti che sulla manopola e non lo toccare. Io sono di quelli che quando faccio dei lavori, quando mi sento soddisfatto, lascio tutto così com'è. Questo è il suo microfono, va benissimo, potenza ce n'è da vendere, siamo a 50 watt modulati quasi, quindi no, non mi interessa. Ricezione ottima, i filtri sono larghi, va bene, ottimo per la truppa, non giudico a nulla io. Giulio lo sa e mi conosce, io quando entro in radio mi devono sentire bene, se per sentirmi male preferisco non entrare. Vai Giulio. Anch'io la penso in quel modo, perché io parto dall'idea, non perché una persona non è accettato, anzi, tutt'altro, casomai le diamo anche una mano a regolare, ci mancherebbe altro, però secondo me, questo è il mio punto di vista chiaramente, poi ognuno al suo, quando uno esce male, per me sta dando fastidio nel canale, tra virgolette, ma noi siamo sempre disponibili a dare una mano se è necessario per mettere a puntino qualsiasi trasmettitore, sia per quanto riguarda il segnale, per quanto riguarda la radio. Io l'ho preso così, in quel modo, ma non per volerlo rinnegare, ci mancherebbe altro, anzi, quando più persone ci sono più mi piace, però se riesci male stai dando anche fastidio. Io l'ho preso in quel modo, o qua. Io sono d'accordo con te, è normale. Se uno la vende in radio deve uscire bene, non importa a volte molto il segnale, però la radio deve essere bella. Io sono da stamattina per 8 alle 8 cercando di far andare bene questa radio, perché per me è importante. Uno, perché capisco il funzionamento, capisco bene la radio, studio la radio eccetera, e poi fare degli abbinamenti microfonici che servono appunto per far sì, per imparare e per uscire bene, tutto qua. Comunque, riuscire ci sei riuscito, poi va bene così. Vai Gianfranco. Sì, volevo chiedere a Marco una cosa, se la conosce questa Titanium 800 dell'Assirio, sarebbe quella che ha la carica in basso, quel mallone tipo auto vecchie della polizia, no? Quelle che si vedevano nei film. Se la conosci. Poi un'altra cosa, ti ho dato retta Marco e ho preso l'apparecchio che mi ha indicato, vediamo un po' cosa succede. Marco sicuramente sta mangiando. No, stava preparando il brodino, anzi la pastina, neanche il brodino, proprio la pastina, quella là che si sogna in bocca. E quanto è lunga quell'antenna, Gianfla? Come lunghezza, quanto è lunga l'antenna? Guarda, dunque, 69 centimetri, il numero è già bello, però l'antenna non accorda neanche a balla. Caspita, è un mallone così robusto come quello che può avere la polizia, tra virgolette, è un mallone così robusto. Sì, lo stilo è molto robusto, però in realtà c'ha una carica alla base abbastanza consistente, dato che regge 150 watt, così qua c'è scritto, e poi nello stilo c'ha un mollone di quelli arrotolati. Guarda, una volta ce l'avevano levato civette per la polizia questa antenna, si doveva anche in molti dei film, in telefilm. Poi in realtà quella della polizia era senza la bobina di giù, no, ovviamente, essendo sui 70 andava diversamente. Questa invece c'ha una carica che la puoi anche svittare, è tutta svittabile. E niente, però in base magnetica non c'è verso, non ne vuole sapere. Ho capito Gianfra. Si sta lamentando ancora di quello, perché gli abbiamo detto che sta facendo male, scusa, è l'altro mondo, boh, io non so la gente come fate. Comunque, no, Marco, ci sei? O sei al telefono? Probabilmente al telefono con Natalino, perché l'intenzione era quella, non dovrebbe chiamare Natalino al telefono. Va bene, dai, riprendi di qua. Cioè, ma di cosa sto lamentando? Non ho capito. È che gli abbiamo detto che inizialmente stavo facendo male, poi ci era messo a posto e abbiamo detto, e secondo lui lo stavamo prendendo in giro, boh, non lo so io. Vai. No, dai, lo conosciamo, non puoi fare un discorso su queste cose, dai, lasciamo perdere. E come si dice, sapere, come ti ripigliate alle basse, se no poi non risolviamo un tubo. Niente, quindi che faccio? Quindi tu sei raccomandato, quindi a Milano altri busti ci vado io. Dove? Nella casa di riposo. Oh, beh, se per farti compagnia già fra io vengo e non c'è problema. Non è che sì, sono incrozzato qua a Sassari, però sai, problema lo stesso, no? Noi ci facciamo compagnia a vicenda. No, perché mi ha detto che ci fanno piazzare le antenne, tanto ha detto dura una settimana, perché poi già lo sai che fine ti fanno fare. E la matta ne rivaria, se mi male la matta mi ammazzo la giura. E beh, ti attribuisce quella che ci ha avuto più morti di coronavirus. No, non ci vengo più con te, no. Preferisco morire a Sassari, vai giù. Vabbè, io ti consiglio di preferire a vivere a lungo, ma a lungo però. Vabbè, dai, si fanno battute tanto per passare il tempo, per cui tutto fa brodo. Vediamo se rientra Marco, sei rientrato, finita la questa telefonata. No, non riprende, dai, vabbè. Vai, già fa. Infatti la volevo ottenere anche come mai Natalino non si sentiva più, era parecchio che non lo sentiamo. Niente, volevo dire, Claudio, ieri stavo ascoltando in 80 metri, credo, ed era, c'era un radioamatore italiano probabilmente che lavora o studia lì, e stava parlando con i colleghi qua in Italia, e sono molto preoccupati perché di lì ci sono venti di guerra veramente, insomma, stanno per arrivare alle mani tra greci e turchi, e ci sono di mezzo anche i francesi. Ha detto che c'è molta paura in Grecia per questa cosa, più del coronavirus. Quindi ci manca solo quello, no? Prima c'è il coronavirus e poi c'è magari qualche guerra, così giusto per passare il tempo. Ma mica la gente è veramente guasta. No, non ho sentito niente io in merito a questa cosa, anche perché in questi giorni ero impegnato un po' con quella radio, quindi le carte erano un po' spente. Però ogni tanto sì, metto un ascolto, c'è sempre qualche bel QSO 7115, dove parlano appunto di queste cose, sono delle persone un po' grandi, un po' anziane, che si dilettano a scambiare due chiacchiere in riferimento a queste cose. Purtroppo siamo in un periodo molto molto delicato, e quindi mi senti di cotto di crude, tutto qua. Lugania, vuoi riprendere? Ok. Vabbè, mi sa che il mondo sta impazzendo, voglio fare. Prendetela per certe cose, boh. Come si fa? Vabbè, comunque. Fate buobisi, una volta uno diceva, non sapranno loro come comportarsi. Vai, io fra. La lascio sempre un pochettino di pausa, nel caso entri qualcuno. Sì, una follia, senza neanche la gente se ne accorga, ci ritroviamo come una guerra nel Mediterraneo. Grazie a quel fatto furioso di turco che c'è in giro. Tra lui e Trump veramente siamo capitato in un'epoca un po' balorda. Poi lui, vabbè, niente, tutto lì. Riprendi Claudio, controlla un po' se la famiglia è pronta di Marco. Ehi Marco, deve cucinare, deve assaggiare, non è così facile. E se facevi fare un porcetto allora guai, tutto il giorno. Ehi, tutto il giorno è poco. Ma il bello è questo, che lui dice che mangia tutto il giorno, sta sempre stuzzicando così, un pezzetto adesso, un pezzetto dopo e così via, tutto il giorno. Ecco il motivo per cui lui pranza alle 7 di sera, e quello è il motivo. No, era il telefono, dai, ho sentito Natalino che lo doveva telefonare, probabilmente al telefono. Comunque facciamo un tentativo. Marco, ci sei? No, no, non c'è. Vai, Gioca. Chi è avanti? Come la preparazione? Scusate, avanti sul canale 10, c'è qualcuno che vuole entrare? Oh, mi sembra la ferma a me. Sì, è qualcuno la ferma. Va bene. Nel frattempo sta sempre funzionando tutto bene qua, sì? Sì. Sì, perfetto. Va bene qua, non c'è problema. Grande. L'amico che è sul canale 10, forse sei in FM, se vuoi cambiare siamo in AM, se ti fa piacere. Avanti, Gianfra. Ma forse era un colpo di preparazione. È probabile anche, ogni tanto già si ripresenta la preparazione. E vabbè, cosa dire, boh, non lo so. Cosa dire qua? Non lo so, dai. Cerchiamo di intavolare qualche discorso su che cosa. Boh. Vedi tu qua, dai, capobanda. Io lo so, questo è argomento tratti. Niente di che, come dice qualcuno. Tanto. Guarda, tutti gli argomenti mi sa che sono terminati, perché io l'unica preoccupazione che ho, se volete proprio che ve la dica, io ho sentito Vidiolina oggi, il sindaco del Cazzato Nero, e ha detto che se non i ragazzi non riescono a capire che veramente questa è una cosa seria, che si mettono in testa di proteggersi e di proteggere soprattutto gli altri, si chiude nuovamente tutto, fa l'ordinanza e fa chiudere il bar, perché sta vedendo cose allucinanti. L'ha dichiarato in diretta a Vidiolina oggi alle 2, veramente incazzato nero. Sì, lo dico tutti i giorni. Comunque spiegami come mai quasi tutto il tratto di passaggio che hai fatto c'era un leggero innesco, qualche radio vicino? No, forse stava toccando perché sentivano anche dei rumori. Leggero innesco? No, stavo passando lo straccio sul coso, quindi sicuramente è quello lì l'innesco. Anche adesso? No, adesso no. Ma nella parte finalissima che è fatta del passaggio non c'era più, ma evidentemente ci si è avvicinato, forse a mare cuffie hai? No, assolutamente, ho finito tutto e stavo mettendo a posto. Non ho toccato qua, guarda. Non so se ho toccato qualcosa qua, forse non lo so, forse ho spostato qualche cavo, qualcosa. Anche adesso tutto ok? Sì, tutto tutto ok. No, solo in quel passaggio c'era un leggero innesco. Vabbè, comunque adesso è tutto a posto. Va bene, hai fatto, da induzione hai fatto, e hai provocato l'effetto Larsen. Avanti, già fa. Perché quello è un apparato, Claudio, che, ma come anche tutti gli altri, che dovrebbe andare sempre a massa, sempre a terra, con una posizione a terra per evitare queste cose, capito? E così almeno è molto più schermato il tutto. Sì, l'ho visto anch'io quella cosa. Mi sa che continuando così anche a Nuoro ho sentito che anche all'ospedale altri contagiati, quindi Berlusconi stava bene, ce l'hanno ricoverato, c'era anche la mascherina ossigeno, mi sa. Ah, non me lo dire soggetto, porca miseria. No, Gianfra, forse Giulio si ricorda. Allora, io dietro alla base che ha fatto Giulio c'è 50 cm di barra in rame, quella ad alta tensione che mi ha procurato un elettricista a livello industriale, ed è tutta forata. Ci sono 5 giallo-verdi che partono tutte alle radio, ed è tassellata a muro la barra, quindi ho messo anche a quella lì, capito? C'è il 430, il 440, il 756, il 950, il 2000, anche le V e le U basi, soprattutto quella 220, 780, sono tutti giallo verde attaccato, quindi è impossibile che sentiate altri tipi di frusci. Se sentite qualche innesco è perché lo causo io, magari toccando qualcosa, ma diversamente no. Non c'è assolutamente niente. Vai Giulio. Sì, ma è così. No, va bene, adesso va benissimo. Come ti sei spostato qua? Magari hai fatto induzione con la radio stessa, tu persona con la radio stessa hai fatto induzione, mette polverabile, e allora ecco che è successo questo, ma niente di particolare. Tutto in ordine adesso, non c'è problema. Avanti, Gianfra. Sì, dicevamo che lo fa anch'io il sindaco, tra l'altro è anche medico, quindi sa quello che dice. Troppa, noi stavamo tanto tranquilli, capo, anche nel periodo peggiore, adesso ci tocca stare così con la FIFA per ogni cosa, amate le immagini, per colpa di 4 imbecilli. Tanti erano gli imbecilli già qua, tutti quelli che sono venuti da fuori, imbecilli erano tanti. A noi ci hanno fregato praticamente, speriamo che se ne vadano presto, anzi addirittura si volevano mettere una linea aerea o una linea navale proprio per spedirli a casa loro, e invece di questi 400 che sono lì in quarantena, solo 65 se ne sono voluti andare, sempre che se ne siano andati. Gli altri dice no, rimaniamo qua, e glielo credo, fai la quarantena in quelle case così, con tanto di piscina, con tanto di villa, eccetera, glielo credo che ti conviene rimanere qui. Ma guarda un po', capita. Ah, stavamo bene, noi no, sono venuti loro a rompere l'anima qua. Avanti qua. Ma quello che ha dichiarato il presidente della regione infatti è quello. Dice inutile che ci attaccano, perché c'è stato un dossier dalla parte della regione Lazio. Dice inutile che ci attacchino. Noi avevamo contagi a zero prima di iniziare il periodo estivo. Quindi tutti questi che sono già venuti con asintomatici, qualcuno con dichiarazioni false, e ne hanno contagiato tutti. Poi sono partiti da qua. È chiaro che è successo un fatto a tratti, però la colpa non è assolutamente la nostra. Questo è quello che ha detto il presidente della regione, poi Anisaidu, comunque c'è troppa libertà, io lo vedo tutti i santi giorni, continuo a vederlo e non c'è niente da fare. C'è molta gente che sembra che tutto sia finito e tutto sia tornato alla normalità, ma in realtà non è assolutamente così. Di nuovo hai avuto un tentativo di innesco, forse sarebbe il caso di abbassare un pochettino, se è possibile, la modulazione a questo punto, perché lo fa sembra indecisa se farlo o non farlo, capito? C'è stato proprio all'inizio che c'era questo innesco. Ma non vuole che sia. Ah, eccolo qua. Eccolo qua. Allora, aspetta. Lo mettiamo così. Va bene così? Mi sentite lo stesso, sì? Per me va sempre bene. Perché a volte magari rimane in bilico e a seconda magari anche di come ti muovi, se lo fa. Avanti Giulio. Sì, è così. Hai detto bene, Giofra, in effetti è così. No, ma adesso va bene di nuovo qua, è tutto a posto. In questo ultimo passaggio che hai fatto adesso è tutto a posto. Inizialmente vabbè, c'era di nuovo l'innesco, però era una cosa leggerissima, provocata chissà, ma forse hai del metallo addosso. Così calamitato, Ocla, e sei tu che lo provochi. Guarda, ho lasciato il microfono, sentirete la televisione, vediamo un po', non sto toccando niente, sto controllando lo Smith, sembra tutto ok. Sì, è a posto. Sì, no, è stato solo un attimo poc'anzi inizialmente, ma niente di particolare, l'hai subito eliminato. Va bene, sì, ma i medici, ma anche quel direttore, adesso non mi ricordo come si chiama, addirittura aveva fatto una lettera e l'aveva mandata al giornale, allo stesso tempo su WhatsApp, io perlomeno l'ho ricevuta anche su WhatsApp, che poi ci chiedeva di divulgare un po' quella notizia, perché il picco proprio del Covid qui a Sassari, o perlomeno qui in Sardegna, sarebbe venuto fra una decina di giorni. Tutto questo l'ha detto, diciamo, 3 giorni fa, 4 giorni fa. Speriamo che non sia così, però se l'ha detto non è uno scemo, no? È un direttore dell'ospedale, quello, per cui non è certo uno scemo, non è che stava dicendo cretinate. Va bene, avanti Giorgio. Sta salendo di nuovo la popolazione. Purtroppo sì, è così. È una pia illusione, quella del... è tutto passato, e molta gente ne è convinta, c'è addirittura qualcuno che dice che non è esistito niente, ma veramente siamo in un campo di pazzi. Adesso vediamo un po' come si mette, perché se continua così siamo punti a capo, che piaccia o no, l'unica cosa che funziona è l'isolamento. Con tutti i danni e i guai che ciò provoca, però se è l'unica medicina per sopravvivere è quella. Vabbè, riprendi Claudio, vedi un po' se è rientrato qualcuno. No, quello che sento è questo in FM e basta. Cosa stavo dicendo? Una cosa? Ah, Gianfra, ma tu stai usando il Barrett con quale microfono? Caspita, c'è una modulazione eccezionale. No, questo è... non è il Barrett, è il Motorola. Ed è ultimo, ma è sempre di quella famiglia, cioè di quel tipo di apparati. Questo si mette in macchina. Non certo su una macchina di queste che stanno uscendo, non ci sta neanche a balla. E dà la sua potenza di quello volendo, io lo tengo sempre, guarda adesso sono meno di 4 watt dovrebbe essere addirittura. C'ha tutto a eccezione dell'FM perché non si usa, c'ha sempre i soliti tastini per il collegamento alla linea telefonica, poi i vari controlli, eccetera, eccetera. Tante opzioni, click and track, e va molto molto bene, è molto vantato anche degli americani, magari perché è un Motorola, vanno un po' a scoprire. Comunque è formidabile. Va bene, ottimo per la truppa, caspita, bella modulazione, bella corposa, bella in tutto, non ci sono problemi. Sì, Giulio, ha detto così, il sindaco ha detto che dobbiamo arrivare a contagi zero prima dell'apertura delle scuole, perché altrimenti fa chiudere i bar, c'è troppo assembramento, troppa gente che non ha capito un accidente, tutto qua. Sì, ma la paura mia è qua, è proprio adesso, prima dell'apertura delle scuole, perché io sono convinto che adesso quando apriranno le scuole, se continua ad esserci tutta questa indisciplina, perché siamo tutti indisciplinati, mi ci metto anch'io e ci mettiamo tutti così per diciamo essere al pari degli altri, anche se devo dire la verità, io sono 5 mesi che non esco, esco solo per prendere la pensione, e quando esco esco con la maschera e non la tolgo nemmeno per un secondo, per dirti, no, ma diciamo, parliamo in maniera generale così. E io dico questo, se aprono le scuole e disgraziatamente qualcuno viene contagiato in una sola aula di scuola, tutto l'istituto verrà chiuso. Perché? Perché metteranno tutti in quarantena. Ma che senso ha, dico io, allora, aprire le scuole con questo problema che c'è? Ma quando mai non si possono rimandare ancora di un paio di mesi, ad esempio, per tutto quest'anno? Tu mi dirai, ma la scuola deve, certo che deve iniziare, ma lo so benissimo che la scuola è importantissima, ma io penso che la salute sia anche più importante della scuola e del Dio denaro, come hanno fatto tutti questi magnacci che sono venuti da fuori, che ci hanno impettato qua. Io ho preso in questo modo, che hanno messo il Dio denaro davanti alla salute, i vari miliardari della Costa Smeralda, per così dire, Porto Cervo soprattutto. Vai, Gianfra. Ma purtroppo è così. Che ci sia un contagio una volta che la pongo a scuola, visto l'esperienza di altri paesi, è più che certo.